Guardati sì. dentro, non giudicare dall'aspetto e non fare il razzista. Lo skin o il fascista. Tu prova a toglierti la pelle, noi siamo tutti uguali. Violenza ce n'è troppa e troppi stupidi ideali. Dalla diversità della pelle alla classi sociali. Non peggiorare la situazione, la vita è già un inferno. Incontri dei tipi, sei solo, allora zitto e fermo. E se ti guardi intorno, tutte tipe troie.